Il tuo bambino ha particolari condizioni di salute certificate dal medico? Se il tuo bambino ha particolari condizioni di salute certificate dal medico dell'AUSL, cioè dall'azienda unità sanitaria locale, devi indicare queste condizioni nella domanda di iscrizione. Il tuo bambino è in regola con le vaccinazioni? Un bambino che si iscrive a scuola deve essere in regola con le vaccinazioni. Trovi informazioni sul sito internet indicato qui sotto.